buongiorno. Ciao Gianluigi, ciao. Non mi ricordo come ti chiami. Carlo Gente è un grande, vedi? Carlo Gente. È così facile. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Nessuno esce a prendere questo pallone, poi arriva il tiro, la palla recuperata da David Logan, finisce qui, altra impresa per la Dinamo. Dopo la Supercoppa e la Coppa Italia, Sassari conquista il titolo più importante, lo scudetto, il primo della sua storia, un trionfo assoluto, un triste che in passato era stato ottenuto soltanto da Siena e da Treviso. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Siamo nell'ultimo settore, con Rossi davanti e Marquez dietro, attenzione alla staccata dell'ultima S, perché Marquez è di nuovo francobollato, ci prova, è entrato, ci prova Marquez, chiude Rossi, attenzione, è andato dritto Rossi. È riuscito a fare la chicane Marquez, non abbiamo visto la traiettoria. Rossi c'è e vince Valentino Rossi, la sua 111esima vittoria. Sabato, sabato, è sempre sabato, vedrai che poi ritorna presto un altro lunedì. Carlos Gonzalez, la palla in rete, il Paraguay è nella semifinale della Coppa America 2015, eliminato il Brasile ai calci di rigore. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato. Io adoro questi weekend d'estate e questi lunedì. Michele Previato è qui con noi. Eccolo. Pierluigi Pardo è come qui va? Vicino a come me. Va? Luca Buratto, Davide Gioia, siamo all'Expo, esatto. E invitiamo todo il mondo. Todo il mondo a chi? Bueno. Todo il mondo a venire a trovarci per tutta la settimana a Cibus e Italia. Vi regaliamo anche delle magliette di Radio 24, vi regaliamo un sacco di cose, vi regaliamo i selfie con Pardo. Sì, c'è questo mistero del Portogallo, nel senso che non trovo il padiglione del Portogallo, volevo il baccalà poi te lo spiego io, però adoro queste weekend d'estate perché c'è di tutto. Salvo la moviola di Cesare. C'è la Polonia, la Papua Nuova Guinea, il Qatar, con tutto rispetto, il Regno Unito, e non c'è il Portogallo. Ma vabbè. Allora, ragazzi, se potete venire qui, venite. Expo, Cibus e Italia. Vabbè, ma almeno lo stand di Livorno per il baccalà alla livornese. Ancora. Non so, uno stand di Vicenza, qualcosa. Cibus e Italia. C'è il Portogallo, ragazzi. Ancora, sto Portogallo. Portogallo? Portoghese lei? No, non è no. Vero. C'è un signore portoghese. No, c'è un signore portoghese. Controlliamo. Con una camicia, fra l'altro, a quadretti. Sì. Se non potete venire qui, 800240024, numero verde. Giorgio 800240024. Giorgio Luca dov'è? Giorgio Luca è in Viale Monterosa. In Viale Monterosa, poverino. A mangiare baccalà. Allora, facciamo una supplica a Radio 24. Portateci Giorgio De Luca. O anche il padiglione del Portogallo, in alternativa. Anzi, da lo scegliere. Oddio. De Luca lo vediamo tutti i giorni. Ecco. Adoro questi weekend. State perché salvo la moviola di Cesare su Empoli Cesena c'è tutto, no? C'è Valentino che fa cazzotti con... Allora, questo è chiaramente calcio di rigore. C'è Valentino Rossi che fa cazzotti con Marquez, c'è Sassari che incendia la Sardegna come il Cagliari di Gigi Riva, c'è il Brasile che fa flop un'altra volta, c'è il Milan che spende 50 milioni per due ottimi giocatori, ma non due fuori classe, che ne dica Pardo, non due giocatori che ti cambiano la vita. Poi arriva lunedì e siamo all'Expo, al centro del mondo, sembra di essere, e c'è Pulvirenti che ammette. Eh sì. Comprate 5 partite, 100 milioni di euro ciascuna. 100.000 euro. Ma 100.000, sì. 100 milioni era un po' caro. 100.000 euro erano rimasto le lire. 100.000 euro a partita. Esatto. Avrebbe ammesso. Ma l'ho fatto per amore. non l'ho scommesso, l'ho fatto per amore, per salvare, diciamo, se verrà confermata sarà una linea difensiva chiaramente dal punto di vista giuridico che potrà soltanto limitare i danni, cioè circoscrivere l'eventuale reato a una fattispecie del tipo appunto di frode sportiva, e dal punto di vista mediatico diciamo che potrebbe in qualche modo essere un tentativo per evitare almeno l'accusa di aver rubato economicamente, cioè di aver frodato per aver avuto un tornaconto di carattere personale economico, ma di averlo fatto semplicemente in preda alla disperazione di una squadra che rischiava di andare in C. Chiaramente sì, questo non basta. La disperazione in Lega Pro, ma dal punto di vista rimane l'illecito, anzi, se, ripeto, se verrà confermata sarà un'ammissione di colpa che sicuramente sì, avrà. Intanto c'è un campionato che questo momento non ha né partecipanti né senso, come quello della Serie B. Cioè in questo momento non siamo in grado di dire alla signora fine... Bodi al telefono che vuole dire no ma certo ci sono domande Bodhi, ci sono domande ovvie, ha un sacco di gatte da pelare, c'è un campionato che in questo momento non esiste, che è quello della Serie B, in cui non si conoscono al momento i partecipanti, perché dopo queste dichiarazioni di Pulvirenti non c'è la possibilità di cominciare la stagione di anche per quella banale la palissiana costellazione del fatto che se c'è chi compra c'è anche chi ha venduto, quindi evidentemente non è che uno si compra una partita da solo, anche se da questo punto di vista torniamo nella solita fattispecie di cui parlavamo qualche giorno fa, cioè di capire a chi appartiene una squadra del calcio. Certamente al presidente sì, cioè se il presidente si muove in prima persona e spendere i soldi per comprare delle partite, quello è un illecito che riguarda oggettivamente la società. Altri casi riguardano invece il singolo giocatore che magari si vende la partita e non solo non rappresenta a quel punto la società, ma fa anche un danno alla società stessa, sì, che potrebbe essere in qualche modo parte lesa di tutta questa questione. Anche se la società avrebbe tutto sommato il dovere di vigilare sui traffico. Adesso arriva il traffico. Aspetta, lui è bravo, oggi stiamo i cartelli fatti bene, non è come... Come ti chiami? Massimo? E cosa c'è? Ecco Benjamin. Che oggi è il nostro assistente. Va qui bene. Che ci dà le informazioni. Poi che a differenza di De Luca, che fa gesti strani, fa il cenno del volante, fa il cambio, dice come se io c'ho il cambio automatico. Per farci capire il traffico, lui invece scrive traffico. C'è una persona seria, precisa. Traffico. Aspetta, no, perché c'è Nibali che ha vinto il campionato italiano. C'è qualcuno che dice: non dite che Nibali ha vinto il campionato italiano, vergogna. Nibali ha vinto il campionato italiano, lo sentiremo nei prossimi giorni. Siamo connessi su tutto il mondo. Ma io vorrei sport. Chiedere al 339 13 86 e non mi fermo, e mi fermo qui. Nibali ha vinto il campionato italiano, ma non ditelo vergogna. Ma perché vergogna? Cioè c'è un utilizzo della parola vergogna. Cioè, no, magari uno se l'è dimenticato, magari l'avrebbe detto dopo, magari non... Amico mio, ti voglio bene, ma non sei ancora abituato. Ma no, ma perché vergogna? Ti devi abituare. 339, ma perché vergogna? Vabbè. C'è chi scrive, c'è chi spesso carità, mi scrive, c'erano le finali scudetto e c'era un ascoltatore che ogni giorno mi scriveva: basta, tu e il tuo basket di merda. Ah, ecco, scusi, hai capito? Scusi, quindi non ti sei ancora abituato su questo. 800240024 è il numero verde, potete parlare di quello che volete. Nel caso è anche il mio basket, faccio outing, anche io impazzisco. Di Nibali, di basket, di Valentino più Rossi, basket. Di calcio, di Pardo che dice che il Milan ha fatto un salto di qualità con due giocatori. Beh, sono normali. Ha fatto, secondo me, 50 milioni. Bacca per me è un grande acquisto, potenzialmente un grande acquisto, cioè uno degli attaccanti più contesi dell'intero mercato europeo. Ragazzi, non vi distraete, non è che una volta vi portiamo in esterna, passa della gente, ovvio, passano degli uomini e passano anche delle donne, passano delle donne magari più anziane per le quali abbiamo grande rispetto e delle ragazze magari più giovani e piacenti, ma però mantenete una calma, no? Aspettiamo tutti qui a Cibus Italia per tutta vedi la invece Benjamin come serio è sicuro 100%. Tutti convocati. Tutti convocati. Pulvirenti ha reso un lungo interrogatorio nel quale ha ammesso che le partite a partire da quale da Varese e Catania sono stati oggetto appunto di acquisto, vi è stata una compravendita di queste. Sì. di queste partite. Secondo l'indicazione di Pulvirenti, il costo di ogni partita è stato di 100.000 euro. Pulvirenti ha negato di avere scommesso sulle partite, ha detto appunto di avere fatto questa, di avere avviato questa, queste modalità di gestione delle partite per salvare il Catania. Prima una partita, Piero. 100.000 partita. Tu metti i soldi, io faccio delle carne. No, adesso a parte le battute, non cambia il quadro, anzi è una missione di colpa, quindi credo che sia un ulteriore passo verso provvedimenti di giustizia sportiva e anche di giustizia che succede qua? Ah, sì, di giustizia sportiva e anche di giustizia ordinaria nei confronti di Pulvirenti del Catania, perché appunto è una missione di responsabilità. È chiaro che dal punto di vista diciamo così morale, dalla valutazione morale, un ulteriore squallore è già stato confermato. No, se venisse confermato che in realtà non ha scommesso, perché questo è un elemento, no? Questa è una dichiarazione di parte, no? Da parte di Pulvirenti, e chiaramente deve essere presa con la massima attenzione, però non è detto che sia veritiera al 100%. È una missione di colpa, rimane la possibilità che qualcuno, magari per recuperare i 100.000 euro a partita, abbia anche provato a scommettere. A quel punto nel meccanismo perverso è un ragionamento che ci può anche stare, ma questo non lo sappiamo, lo facciamo fare ai magistrati. È una missione di colpa e è chiaro che, come dicevi tu, il campionato di Serie B in questo momento è un enorme punto interrogativo. Voglio ringraziare Irene per il rifornimento che ci ha portato ora. Voglio salutare e ringraziare Elisa Di Francesca, che è una delle più forti scrittrici del mondo, o forse la più forte, e per me posso dirlo, anche un sex symbol. Ecco. Temevo questo momento. Spero che nessuno se la prenda. No, beh, ma lo sanno tutti, lo sanno. Ma io faccio questo outing. Ciao Elisa. Ciao, grazie. Cioè, sì, tanto per non imbarazzare l'ospite all'inizio, no? Esattamente, no? Tanto per andarci. Ecco, tanto, parliamo di scherma, ecco. Parliamo di Expo, di cui Elisa è uno dei volti e dei testimonial. Expo in Italia a Milano è che cosa? È una buona occasione per farci conoscere, per far vedere che alcune cose le sappiamo ancora fare, e per quello che ho visto anche bene, perché comunque sta riscuotendo parecchio successo questo. Guarda, posso dirti il mio piccolo, ho fatto un primo giro e confido di farne altri fra oggi, domani e in questi giorni. La sensazione, al di là di tutto, al di là di essere al centro del mondo. Ma sì, ma poi è anche personale, che al di là delle cose che non funzioneranno, che sono tante in Italia come in tutti gli altri paesi, però insomma è bello vedere che riusciamo a fare delle cose, che riusciamo appunto a essere al centro del mondo. Sì. C'è questa fierezza, insomma, di ospitare bravo, tante culture diverse, bravo, pardon, e di non stare dalla mattina alla sera a dire che tutto va male, bravi, perché tante cose vanno male. Ma sai però, cosa io non sopporto? Che tutti quelli che dicono però Expo, però ci sono dei problemi, però ci sono delle cose che non funzionano. Godiamoci questo spazio, questo ambiente, questa manifestazione, senza dire senza sottolineare gli aspetti negativi, perché secondo me questo è un grande evento e tutto sommato secondo me è stato organizzato anche per quanto possiamo nel migliore dei modi. Elisa, che dici? No, io raccontaci. Parlavo, però non capivo se si sentiva o meno. No, allora ripartiamo da qui. Tu hai fatto un giro all'Expo, qual è? Raccontaci la tua esperienza da visitatrice, poi parliamo anche dell'attività agonistica. Però insomma, che cosa ti ha colpito di più? Qui ci vogliono giorni per girarlo tutto, no? Infatti sono stata mezza giornata e poco, poi pioveva, era giorno, e ritornerò sicuramente la sera, perché mi hanno detto che è molto suggestivo la sera, cioè è tutto illuminato, c'è l'albero della vita. La cosa che mi ha colpito più di tutti è stato il padiglione giapponese dei grandi, cioè questi pezzi di legno infilati uno ad uno senza chiodi, che stavano proprio incastrati in un modo incredibile, che solo i giapponesi riescono ad avere questa pazienza, questa meticolosità. No, anche perché questo è un luogo, ovviamente il tema è quello del cibo, quindi insomma, particolarmente affascinante soprattutto per me, ma al di là delle battute è stata anche un'occasione per diversi paesi per produrre vere e proprie straordinarie opere di architettura, cioè per portare creatività allo stato puro, creatività e tradizione. Poi, ripeto, insomma, le cose che non funzionano in Italia sono tante e non le cambia una manifestazione come questa, però credo che la curiosità di fronte a tutto questo sia una cosa proprio sana e bella. Ma possiamo una volta vedere la bicchiere mezzo pieno? Assolutamente. Cioè, eh? Come sta la scherma italiana, invece? La scherma sta bene, si sta preparando per i mondiali, avremo i mondiali dal 15 al 23 luglio a Mosca. Sarà un appuntamento importante per tutte le armi, soprattutto per noi del fioretto femminile che ci giochiamo la qualificazione olimpica, perché solo in due atlete riusciranno ad andare alle Olimpiadi di 2016 e questo mondiale varrà a doppio, avrà un punteggio doppio, quindi sarà molto importante per l'evento. Senti, io mi sono sempre chiesto, ma nell'aria di Iesi c'è qualcosa, ci deve essere una componente, non lo so, forse esiste. Il rapporto fra ossigeno e anidride carbonica, sì, non lo so, c'è qualcosa a Iesi che rende, perché certo, veramente è la Silicon Valley di questo sport meraviglioso. Sì, c'è un club meraviglioso che fondato dal Maestro Tripoli che continua a sfornare campioni, continua a macinare, continua a lavorare bene, perché dai primi campioni, da Stefano Cerioni a Giovanna Trillini a Valentina Vestali a me, abbiamo tutti avuto l'opportunità di lavorare, di tirare e di allenarci l'uno insieme all'altro, quindi di capire quelli che sono i segreti, di vederlo a livello tecnico ma anche a livello visivo, è molto importante perché l'allenamento di un campione, il modo di allenarsi, il sacrificio, la costanza, queste sono cose che sono uniche, certo, che è importantissimo che i giovani, che i ragazzini emulino. Senti Eri, io ho un sogno, immagina, è un vecchio sogno, lo confesso a te, l'ho confessato alla Trillina, alla Vezzali a tempo debito eccetera, immagina ora una pedana al centro del Decumano all'Expo, tu e le tue compagne che tirate di scherma, immagina cosa possa succedere, no, perché io ho questa vecchia idea, cioè che è già stata realizzata a Milano peraltro in Piazza del Duomo in alcune esibizioni, non portare la gente alla scherma ma portare la scherma alla gente in occasione come questa. Sarebbe stupendo, sarebbe bellissimo per me e sarebbe un bel regalo che si presta a questo sport che comunque non è mai tanto seguito, Perché non si fa? Adesso organizziamo al posto del Portogallo, ho scoperto perché, che non c'è al posto del padiglione. Perché non riusciamo, perché non si riesce a organizzare una cosa di questo tipo? Magari si può parlare con la federazione e riuscire a organizzare un assalto o una gara a squadre o non so. Va bene, adesso ci pensiamo, adesso a fine puntata, sì, sarebbe fantastico una cosa del genere. Senti, Mancini si è visto a Iesi in questi giorni? Tu cos'è Mancini? Tu sei manciniana? Pronto? Eri? Niente. Elisa? Su Mancini, forse non è manciniana, forse potrebbe esserci questo tema. Attenzione perché Benjamin ha alzato il cartello borsa. Però mancano ancora. Abbiamo Stefano dalla Spezia, abbiamo Dino da Reggio Emilia. Stefano dalla Spezia, dai. Stefano dalla Spezia. Stefano. No, io volevo però sapere da Elisa Di Francesco se era mancina. Senti, organizziamo tanto siamo qui anche una settimana a settembre. Sì. Organizziamo un qualcosa di scherma con tutte le schermatrici italiane. Adesso lo organizziamo. Adesso penso io. Sentiamo Stefano dalla Spezia. Poi Stefano, durante la borsa organizziamo. Stefano, prego. Pronto, vi ringrazio per avermi convocato. Grazie. Ciao. A lei. Ecco, allora, stavo ascoltando quello che dicevate con circa gli acquisti del Milan, i 50 milioni. Mi sembra che il Milan venga da una situazione tragica, se non anche peggio. No, e ha fatto degli acquisti di alcuni due giocatori che sono tutto sommato dei buoni giocatori. Sì. L'Inter ha preso Condobia e più o meno è paragonabile ai giocatori che ha acquistato il Milan, come sì, sì, anche Miranda. Inutile fare confronti, cioè sono giocatori. La Juventus? La Juventus ha perso Pirlo e Tevez prende Mandzukic, ma anche Mandzukic è Mandzukic di Bala. Tanto per cominciare, e che dire a centrocampo? che di là c'è e Rugani dietro. E Rugani dietro. La Juve mi sembra un pezzo avanti. Su Inter e Milan mi sembra si stiano muovendo tutte e due bene, ma la sensazione, Stefano, almeno la mia, era stata anche, nonostante la delusione di quel sabato nel quale erano sfumati improvvisamente due grandi acquisti per il Milan, quella di una società che comunque i soldi ce l'aveva, perché comunque Galliani gli assegni da 40 milioni, da 35 milioni li aveva firmati, quindi i soldi c'erano e i soldi il Milan li sta spendendo. Poi si può discutere, io penso che Bertolacci sia stato pagato un po' troppo, Bacca a me Bacca piace pure. Moltissimo Bacca, no, insomma, Bacca, no, Bacca è il prezzo, Pierluigi, okay, il prezzo è giusto, no, non è ma giusto. Insomma, al di là di questo, al di là di questo mi sembra la vera notizia è, come scrive oggi la Gazzetta, già 266 milioni spesi, cioè in questo momento in Italia improvvisamente, senza nessun motivo razionale, le società di calcio hanno ricominciato a spendere tanto. Il domandone è: saranno coperti quegli assegni? Ma saranno coperti sicuramente. Nel caso del Milan c'è certamente uno shock positivo che deriva da questa vendita. Nel caso dell'Inter, in fondo Tohir, noi diciamo la verità, non è che lo conosciamo ancora, e forse qualcuno l'ha anche sottovalutato, nel senso che magari dietro a quest'aria paciosa da persona appunto tranquilla, non con la mascella di grignata, magari qualcuno ha intravisto un atteggiamento un po' prudente. Mi sembra che poi alla fine l'Inter i soldi li stia spendendo, sia disposto a venderli, quindi attenzione, potrebbe essere un momento nuovamente positivo. Il contratto comunque delle televisioni, al netto delle polemiche, sarà un contratto positivo che ha aumentato i livelli di ricavo delle società di calcio italiane, quindi ha portato dei soldi. Non siamo ai livelli dell'Inghilterra, siamo lontanissimi, però comunque insomma forse si sta costruendo una fase un pochino migliore rispetto a quella. Io sto continuamente pensando al fatto che o è un qualcosa di strutturale, oppure è un grande bluff come a poker, o si vince tutto o non si porta a casa niente. 800 24 00 24, siamo qui all'Expo Cibus Italia, vi aspettiamo con noi qua fuori, vi aspettiamo al telefono all'800 24 00 24. Borsa. Convocato anche oggi alla mia età, oh. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Eccoci, no, devo dire, no, che c'è questa, cioè, sì, no, ma c'è questa strana tendenza di molti degli eventi di diventare tutti dei Vinitali. Cioè, capito? Uno fa la fiera del bullone, andiamo a fare, e poi alla fine diventa tutti dei Vinitali. Ecco qua, buoni ragazzi. Ma oggi sono indisciplinatissimi, va bene. Dino da Reggio Emilia, linea 6. Dino da Reggio Emilia. Indisciplinatissimi. Da buono, gente. Prendiamo in mano la situazione. Dino, vai. Pronto? Eccolo, Dino, come va? Bene, grazie. Lei, dottore, Zeta, io la ringrazio, Zeta, per avermi dato la possibilità di parlare. Io ho chiamato perché no, ma grazie volevo, a lei. Volevo, sì, complimentarmi con tutta la città di Sassari, con la squadra di Sassari, per la grossa sportività che hanno dimostrato a Reggio. Si sono dimostrati gente che sa vincere, perché no, bisogna anche saper vincere. Loro, e bisogna anche saper perdere, perché Reggio Emilia è stata meravigliosa, è stata una finale, è stata una finale meravigliosa da, anche da questo punto di vista, o forse soprattutto da questo punto di vista, perché quello che si è visto intorno a questa finale è stato qualcosa di indimenticabile. Magari sarò retorico, però, no, però è stato qualcosa di indimenticabile. Ma non è retorico, è l'essenza dello sport, e devo dire la verità che la qualità del gioco, la qualità anche voi drammaturgica di quello che si è visto, gara 6 con i tre supplementari, gara 4 con un supplementare, si è arrivati all'ultimo secondo, ti veniva voglia di dire ma dategliene due a queste due squadre, sono talmente meravigliose che se lo meritano tutte e due. No, ma poi intorno al campo è stato fantastico, intorno al campo è stato fantastico, tra gemellaggi, tra parmigiano reggiano e pecorino sardo, tra il rispetto massimo e totale che c'è stato tra le due tifoserie. Dino, già ti dico che dopo le GR delle 15 avremo un grande ospite. Due grandi ospiti. Dovremmo avere Giacomo De Vecchi e Gigi D'Atome, che gioca nell'NBA, e quindi continueremo a parlare di queste cose. Questa finale è stata qualcosa di indimenticabile, alla faccia delle metropoli, alla faccia di Milano multimiliardaria, sì, alla faccia di tutti quelli che mandano in campo gli estratti conto. Questo è evidente, o i fatturati, per usare i fatturati, un'altra espressione in voga, però i fatturati esistono, quindi Andrea D'Amico, eccolo qua. Torniamo razionali. Andrea D'Amico, mister fatturato, eccolo. andrà, come va? Se, no, io, come sta Giovinco? No, ma aspetta, più che sta Giovinco, come stiamo noi? Io e Pardo abbiamo firmato a Vinitaly ad Andrea D'Amico, lui presenta una procura. Sì, non mi pare ancora che bianco, siamo su niente. Ora siamo, eravamo a Vinitaly, ora siamo all'Expo. E voglio capire dal nostro procuratore a che come, punto siamo, come sono le nostre quotazioni, perché guarda, stiamo aspettando. Sono andato a Toronto, dove ho incontrato anche Benigni, che vi saluta, che sì, è un po' mi segue sempre, meraviglioso, esperto in materia. E devo dire, siamo a un punto adesso, a settembre ci sarà il Toronto Film Festival, e vorrei portare voi come due epigoni della radio, così come posso dire, italiana. Quindi vi ho prenotato, Beh, va bene, io ho firmato a vita con Radio 24, pubblicamente. Ho anche baciato la cuffia. esatto. Ecco, sì, l'ho baciato. Allora, prendiamo questo impegno pubblico, allora perché comunque sono arrivato lì, ho detto mamma mia, l'hotel è inagibile, forse sono, perché ho visto una coda di aereo davanti all'albergo e tutti invece hanno detto no, tutto bene, tranquillo, stiamo girando Suicide Squad, che è il nuovo film di Will Smith, quindi veramente tra calcio, cinema, musica, radio, cioè, ero un po' disorientato la mattina come avanzavo. Quindi io e Pardo non prendiamo impegni per settembre, perché il nostro procuratore ci ha trovato. Senti, ma sono tornati i soldi? So che parlarne oggi in questa giornata un po' complessa per l'economia europea, anche se poi magari sono movimenti speculativi e speriamo che tutto vada bene nei prossimi giorni, si trovi questo accordo. Però è difficile. Al di là di questo, dico, invece il calcio italiano improvvisamente sembra essere tornato a vivere al di sopra delle sue possibilità? Da dove escono tutti questi soldi? Ma l'importante è che escano, insomma, che ci siano state le iniezioni di fiducia oltre che di economia. È chiaro che la quella che conta è quella di arrivare in Champions, e quindi sull'altare della Champions penso che si sacrifichino i nuovi tesoretti, insomma, gli ultimi tesoretti. Penso che costruire una squadra competitiva per arrivare in Champions sia il punto di salvezza per comunque chi deve tenere un posizionamento molto elevato della propria squadra. Quindi, certo. Quindi mi confermi la mia sensazione è che si gioca un po' a poker. All in. Sperando di vincere e di non fare un buio. Certo. Welcome to Las Vegas, Sì, Welcome to Las Vegas, e si giocano quelli che restano, e sperando di fare il pieno, e se no si va a casa in mutande, Andrea. Devo dire che l'esempio è abbastanza esemplificativo, tanto per fare una ripetizione, insomma. Capito, sei stato da Giovinco per parecchi giorni, che situazione hai trovato dall'altra parte dell'oceano? Ho trovato un movimento veramente in crescita, che è pronto per ospitare sempre più campioni importanti. Lui è diventato ormai l'idolo della Toronto italiana, non solo perché comunque sta vivendo questo momento con grande euforia, con grande semplicità, ma con grande euforia. Non è un episodio, ma comunque è un progetto valido e molto importante, che porterà sempre più il calcio al centro di quelli che sono gli interessi dello sport americano, nordamericano e non solo. Quindi non è appunto una cosa episodica, è proprio un progetto, perché comunque lì ci sono risorse, capitali, ci sono strutture, capacità di marketing e commerciale, e tantissimi tifosi che soprattutto vengono dall'America Latina, dal Centro America, dall'Italia, e quindi comunque il calcio, verrebbe quasi da dire, torna a casa. Ecco, quindi noi a volte ci lamentiamo delle nostre strutture e loro questo non possono farlo, perché è una di organizzazione e tutto. Anzi, però sistema italiano. Però scusa Andrea, io ti stimo molto, però è assurdo avere questi telefoni, questa gente che si collega con questo telefono che non prende. Io lo trovo una mancanza di professionalità enorme, eh. Ma devi sapere Andrea che io spesso ho questo tipo di problema del telefono che non prende, quindi adesso mi sto prendendo la mia piccola rivincita. Facciamo così, cioè, abbiamo il traffico, ci ricolleghiamo con, sì, con Andrea, poi c'è Lorenzo da Firenze e Marco da Firenze. Facciamo altre saranno fratelli con Andrea. Borsa. Bacca no. Non lo vogliono, Bacca non giocherà nel Milan, ve lo dico, ve lo volete sapere in francese, in inglese, in foggiano, ve lo diglielo, dico in colombiano, qualunque, in foggiano che ti viene meglio. Non giovane. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, torniamo dall'Expo. Cibus e Italia, veniteci a trovare qui. Pierluigi Pardo vicino a me, Andrea, sì, D'Amico che ha cambiato cellulare, ha scambiato quello di Pardo con il suo, quindi adesso si sente. Andrea? Eccolo qua. Eccolo là. Senti, ma Pirlo è ufficiale? Pirlo ufficiale? Vai in America? Vai una cittadina mica male lì, No. Trova qualche milione di italiani anche lì. Sono un po' più antichi di quelli che ci sono a Montreal e a Toronto, ma sono sempre italo-americani. No, ma volevo circostanziare meglio quello che ho detto prima, perché so che Pardo, io anche se non lo vedo, lo sento, aveva subito gridato la lesa maestà, il calcio europeo, così la tradizione e tutto, ma sì, sono d'accordo, sì, con lui. Ovviamente nessuno vuole mettere in dubbio il primato del calcio europeo, ci mancherebbe, anche perché per costruire una tradizione ci occorrono tantissimi anni. Però io penso che il complice Hollywood, che entro poco farà un paio di storie belle sul calcio, che fanno sempre un effetto traino molto importante, come l'hanno fatto con il rugby, sì, con il football americano, con il baseball e con il basket, lo faranno anche con il calcio. Io penso che noi dovremmo forse riflettere sul nostro sistema. Siamo un po' troppo autoreferenziali, pensiamo un po' troppo di essere il numero uno, Andrea, e non ci rendiamo conto che ogni anno qui falliscono minimo 2-3 società. Hai ragione, che non sappiamo neanche chi c'è in Serie B, non sappiamo neanche chi c'è in Serie B l'anno prossimo. Hai ragione, Andrea. Hai ragione. No, non è possibile andare avanti così. D'altra parte è ovvio, perché se io voglio creare uno sport business, devo dare certezza a chi investe in questo sport. Non posso dargli un'area economica e sportiva che coincide con un potenziale fallimento della sua attività. Cioè, se io voglio creare attrattiva, perché voglio, il calcio ormai vuol dire potere politico, potere economico, comunque gestione delle masse in tutto il mondo, ma io non posso dare un'area economica dove la retrocessione in una serie inferiore equivale al fallimento economico. Allora a questo punto l'imprenditore dice: perché io devo investire? Ora bisogna battezzare dei centri che possano, per strutture, non tanto per strutture, per tradizioni, per merito, fare i campionati professionistici. E a quel punto lì non c'è più una retrocessione. Se io decido di fare la Formula 1 e posso anche arrivare ultimo, non è un problema. Sì, però, mi faccio un mio piano economico, che quel modello, questo modello qui funziona sicuramente. Ormai no, però non possiamo più fare un po' i sentimentali, perché diciamo no, è giusto che ci siano le promozioni. Sì, tu puoi essere promosso, ma devi avere le caratteristiche che ti permettano di essere, o perlomeno. No, ma questo sicuramente, per cui quando poi leggo sì, quando leggo i tifosi del Carpi, per i quali ho enorme rispetto, ovviamente, anche perché però si ispirano all'Abruzzo, ma al di là della battuta, che dicono che sono che diserteranno, minacciano di disertare il nuovo stadio perché il Cabassi, cioè, quelle sono esagerazioni. È evidente che nel momento nel quale c'è una favola, una storia come quella del Carpi, come quella del Chievo, come quella del Sassuolo, poi inevitabilmente deve trovare un contesto e una scatola che sia più adatta a un campionato come quello di Serie A. Sul discorso delle promozioni e delle retrocessioni, però, mi sembra veramente un elemento culturale del calcio europeo che funziona così. Poi di fatto il meccanismo da NBA, il calcio europeo, se l'è creato con la Champions, perché la Champions lo sta diventando sempre di più, è una, ormai una cricca di soliti noti che per carità si meritano la qualificazione di Champions League e che ogni anno si disputano quel titolo. Vedere il Verona, la Samp vincere il campionato o il Parma, pensare di poter lottare a quei livelli di 15 anni fa, oggi è diventato complicatissimo. Quindi questo secondo me un po' sta già succedendo. Sulle retrocessioni, francamente Andrea, non lo so, mi sembrerebbe veramente un meccanismo proprio avulso dalla cultura del calcio, non solo italiano ma anche europeo. Poi è ovvio che l'NBA ha la sua logica, o l'MLS, scusa, ha la sua logica. Pierluigi, facciamo, sì, i sentimentali o facciamo i realisti? Il realismo è che ogni anno falliscono 3-4 società e ci sono famiglie, comunque lavoratori, come altri lavoratori che si trovano a casa, perché adesso l'anno scorso, certo, è fallito il Siena, è fallito il Bari, è fallito il Padova, quest'anno è fallito il Parma, è fallito, potrei andare avanti perché comunque non si sanno gli sviluppi dell'indagine, no, che sono questo, partite dalla cosa questo di senz'altro Catania. Andrea, però allora, è sulle retrocessioni che secondo me, no, è difficile, scusa, andare avanti. Pierluigi, o creano, sì, mantengono questo sistema, promozioni e retrocessioni, fanno come hanno fatto in Inghilterra, dando un ombrello di copertura economica, certo, di 5 anni minimo, che consenta una riprogrammazione e una gestione dei contratti che hai in pancia. Perché se io sono un giocatore del Parma, mettiamo che il Parma non fosse fallito, ma fosse soltanto retrocesso, io che ho 3-4 anni di contratto come calciatore, così come tanti miei colleghi, se vado in Serie B, il mio proprietario deve avere la possibilità economica di sostenerli questi contratti, ok? Ma perché nel momento stesso in cui andare in Serie B vuol dire non poter più sostenere determinati contratti, vuol dire fallire. Ma su questo Andrea io sono completamente, cioè su tutti i meccanismi di redistribuzione che vadano a fare perequazione, adesso stiamo parlando veramente alla Barisoni, però che insomma che rendano meno distante la forbice fra i ricchi e i poveri, io sono perfettamente d'accordo. Credo che si debba trovare un meccanismo virtuoso e certamente uno dei problemi più grossi è il caso di società che lasciano la Serie A con i ricchissimi diritti televisivi, sì, scendono, okay, in Serie però, B. Però in questo momento però abbiamo una Serie B in cui c'è un presidente che ammette di aver comprato. È un'altra storia, però, Carlo, però è un'altra storia, ma fa parte dello stesso sistema. Un presidente che dice di aver comprato 5 partite per 100.000 euro ciascuna. E allora come mettiamo insieme tutte queste cose? No, ma però scusa, ribadisco, questa è un'altra storia, questa è una storia criminale, se verrà confermata ovviamente la colpevolezza, che riguarda i magistrati, che riguarda l'illecito sportivo, per la quale ci saranno delle sanzioni, ed è una fetta del problema. Quella alla quale si riferiva Andrea, secondo me, è un problema strettamente economico di società che quando scendono dalla Serie A alla Serie B, o comunque quando si trovano di fronte a delle crisi profonde, anche per loro colpa, perché poi il Parma, l'abbiamo visto, ha avuto dei comportamenti assolutamente antieconomici nella gestione, però è chiaro che la presenza di un ombrello, di un meccanismo che le possa garantire e che gli possa fare il salvagente sarebbe utile, su questo non c'è dubbio. Però io non credo ai modelli estremi, cioè io non credo al modello all'americana del campionato con le franchigie in cui scegliamo quali sono le 20 città italiane con più bacino d'utenza e decidiamo che il campionato lo giocano sempre i loro 20, perché secondo me c'entra poco con la nostra tradizione e alla fine potrebbe essere un boomerang, questa è la mia idea. Ma è chiaro che quello che io dico non deve essere tanto per titoli, ma deve essere per merito, nel senso che una squadra che arriva in Serie A deve avere determinate strutture, deve avere uno stadio probabilmente di proprietà, deve avere un centro di allenamento di proprietà, deve avere delle strutture, non può fare un campionato di Serie A una società che poi non sa dove deve andare a giocare. Cioè, questo vuol dire anche credibilità. Ma per questo Andrea, questo tu assolutamente sai, e se fossi un tifoso del Carpi oggi benedirei il fatto che l'anno prossimo si va a giocare a Modena, perché viva Dio questa piccola grande società, sì, si è costruita questa cosa meravigliosa di, sì, giocare in Serie A e quindi ha bisogno di uno stadio più grande. Poi si va tutti lunedì a festeggiare la squadra e a fare l'allenamento all'aperto, perfetto, e poi si va la domenica o il sabato a prendersi i punti a Modena. Perfetto, però questo che delinea Andrea D'Amico è il futuro che serve, ma è un futuro vario ed eventuale purtroppo in Italia. Senti Andrea, ci sentiamo presto, anche perché le nostre procure. Ci vediamo anche a Custoza presto, Ci vediamo a Custoza. No, cosa faceva? Andava a giocare a Isbro. Andrea, presto, grazie, un abbraccio, mi raccomando, abbraccio, hai le nostre firme, ciao, hai le nostre firme, ciao. Niente, abbiamo sentito vabbè. Adesso c'è il GR, poi torniamo con tanto basket. Ci scrive basket please, Giuseppe, basket please. Fra poco torniamo, basket, calcio. Poi Lorenzo, e anche Alessio Valentino. E Marco. E anche Valentino. Firenze, Luca, Firenze. E anche Valentino lì, 46. Sì. Secondo me questo è tutto da rifare. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Che dire, arieccici. Tutti convocati. Limbo di burò, tuta alle galli, contenti di intendelli e contenti di suonarli, ma rialzo un po' di no, vedallegro veramente. La sai questa per Luigi Pardo? No, non la so, però è una cosa bellissima, storia bellissima, come sarebbe stata bellissima anche la vittoria di Reggio, veramente è stata, l'abbiamo detto da prima che cominciasse gara 1, era una finale inedita fra due realtà bellissime, molto diverse. Per stile di gioco, poi tu sei più esperto di basket di me, per stile di gioco, per numero di italiani in squadra, cioè, però comunque due bellissime realtà. E ci hanno regalato una finale meravigliosa sul parquet. Come se avesse vinto lo scudetto l'Atletico Bilbao. Una cosa così. Sì, anche se devo dire da questo punto di vista, forse Reggio Emilia era più italiana come squadra. Però sì. Sassari ha avuto delle punte di spettacolarità. Poi, insomma, vale moltissimo per Sassari e per tutta la Sardegna. E ovviamente lo stesso discorso avrebbe riguardato Reggio Emilia, che è andata vicinissima. C'è Jack De Vecchi. Buonasera. Ciao Jack, come va? Ciao a tutti, bene, benissimo, ciao. Direi. Tu non sei sardo, però insomma ti sarai reso conto di che cosa significa anche dal punto di vista simbolico. Questo studetto, uno dei migliori amici di Danilo Gallinari. Appunto, che era il cugino, no? Ecco. Però voglio dirti, hai capito che cosa significa tutto questo per una regione intera, se non abbiamo capito male? È stato fatto il paragone con il Cagliari di Riva. Esatto, no, non sono sardo, ma mi reputo sassarese, metà sassarese, ormai 9 anni che sono qua a Sassari, quindi... Voglio dire, sono sassarese quasi a tutti gli effetti. Ci siamo resi conto in realtà di quello che stiamo facendo proprio l'altro ieri, quando stavamo arrivando a Sassari e siamo atterrati ad Olbia con l'aeroporto, con l'aereo, e abbiamo fatto da Olbia a Sassari in autobus, e ogni svincolo di ogni paese c'era gente che in strada a salutarci, e quindi questo ci ha fatto veramente capire che non era solo uno scudetto di Sassari, ma di un'intera regione, di un'intera isola, e questo ci riempie d'orgoglio. Ma tu che sei un uomo in televisione, per Luigi, ti rendi conto che hanno fatto in Sardegna, cioè praticamente tutta la Sardegna venerdì sera stava guardando Rai 3 e stava guardando Sassari vincere lo scudetto. Sì, e anche parecchi altri italiani, visto che ha fatto un buon 6,5% di share, che non era scontato. Che per uno sportivo professionista abituato ad allenarsi 300 giorni l'anno, l'idea che, forse anche 330, l'idea che il destino possa dipendere da una rimessa, da una deviazione, da un canestro che entra o esce, penso a una tripla di Reggio Emilia che poteva portarla a più 6 a 3 minuti dalla fine, che lettura si dà di questo destino, di questo sottilissimo filo che le lega e che separa la vittoria dalla sconfitta, il trionfo dal fallimento? Ma è una sensazione incredibile, perché un po' in questa finale specialmente, che era veramente equilibrata, infatti non per questo siamo arrivati alla gara 7, in gara 6 abbiamo fatto 3 supplementari prima di decidere la vittoria, e quindi è qualcosa di indescrivibile, un'emozione grandissima, e gli ultimi secondi era veramente, il cuore batteva a 1000, era qualcosa di incredibile. Dopo ovviamente noi è andata bene quando Dino ha tirato quel tiro da 3 a 3 secondi della fine, era proprio fuori traiettoria, insomma tutti, è un'emozione fortissima, è stato qualcosa di incredibile. Ma vi sentivate vi sentivate un po' invincibili, nel senso che chi ha visto la serie lo sa, insomma Reggio Emilia ha vinto bene largamente gara 1 e gara 2, Sassari ha faticato, ha fatto una grande rimonta in gara 3, in gara 4 se l'è un po' incasinata fino al supplementare, poi l'ha vinta, insomma complessivamente diciamo che nelle 6 partite che avevano portato a gara 7 Reggio Emilia aveva vinto con maggiore sicurezza le sue 3 partite, no? Non dimenticarti che hanno fatto il triplete, eh? Appunto, vi sentivate un po' invincibili, un po' quelli dei palloni vincenti, quelli che non muoiono mai, quelli dal punto di vista della personalità, questo ha pesato un po'? Ma noi senz'altro siamo arrivati in finale consapevoli che durante tutta la stagione a ogni appuntamento importante, quindi Supercoppa, Coppa Italia e anche semifinale gara 7 con Milano, quando c'era la partita della vita da fare la differenza, abbiamo sempre fatto bene, siamo sempre riusciti a portare a casa una vittoria, quindi siamo andati consapevoli di quello. Poi sai, la partenza è stata un po' traumatica per la finale per noi, che comunque siamo andati a Reggio Emilia ancora un po' ubriachi dalla vittoria in semifinale con Milano e insomma siamo partiti un po' col piede sbagliato, poi siamo stati bravi a rimettere in carreggiata e in gara 7 ci siamo detti anche tra di noi in spogliatoio, sapevamo che veramente la partita quella sarebbe stata la partita della vita, la possibilità di scrivere la storia da pallacanestro a livello nazionale e soprattutto in Sardegna era insomma qualcosa di incredibile. E comunque sapevamo, sì, senz'altro un po' di pressione ce l'avevamo addosso perché appunto avevamo già conquistato 2 coppe in questa stagione e tutti ci davano, insomma, strafavoriti una volta arrivati in finale. In realtà non è stato così, bisogna fare complimenti anche a Reggio Emilia che ha fatto una stagione, una finale ad altissimo livello. Sì, questo sicuro, abbiamo già sottolineato prima come come quello che ci è stato intorno a questa finale sia stato qualcosa di meraviglioso e che non avevamo mai visto negli ultimi anni. Senti, di questo... il tuo sogno è sempre quello di andare a giocare a Boston al posto di Datome, vero? Sì, vuoi andare a giocare a Boston? Gigi Datome, ti presento un tuo tifoso, Gigi Datome, buongiorno. Come va? Buongiorno. Sei arrivato a Montebelluna? Ho visto quel tweet. Sono già arrivato anche in Sardegna. Che hai fatto? Sei un pilota di rally. Quanti chilometri hai fatto? Come l'hai vista queste 7 partite? Un po' l'hai commentata, hai twittato, ti sei emozionato. Tu sai che lui è Geppe Cucciari e Gigi Datome sono i più grandi tifosi di Sassari, certo. No, le ho viste ovviamente, ho avuto la fortuna di vedere gara 6 dal vivo, che è stata una partita pazzesca, e tra l'altro colgo l'occasione per fare complimenti di persona a Jack, che ha scritto una pagina importantissima, storica, per il basket sardo, e sono contento e felice per lui, che si starà godendo veramente tutta la festa che si merita, lui e tutti i ragazzi, e so delle feste che gli hanno fatto ad Olbia, li hanno accompagnati per strada da Olbia a Sassari, ogni paesino si affacciavano alle persone per tributargli i giusti complimenti, a Sassi poi l'ira di Dio proprio, quindi l'invidio, perché si stanno godendo veramente delle giornate pazzesche e se le meritano tutte. Comunque è stata una finale bellissima, per me da spettatore, non poteva veramente desiderare una finale più bella come spot per il nostro basket italiano. Gigi, però tu che sei di lì, sei cresciuto lì, tuo papà è stato in società lì, sappiamo tutta la tua storia, questo scudetto per te personalmente cosa vuol dire? No, vuol dire che a Dino hanno fatto qualcosa di veramente bello, importante, perché tutta la Sardegna si sente parte di questo successo, per come nella persona di Sardar hanno coinvolto gli enti, tutte le tantissime attività all'interno della Sardegna, hanno fatto veramente sentire partecipi della stagione, delle giornate, di tutte le tappe che hanno portato a questo scudetto, che non è nato e finito quest'anno, ma è nato anni e anni fa con gli anni in A2, dove Jack c'era già, dove Sacchetti c'era già. Quindi veramente hanno fatto qualcosa di impensabile. Ne parlavamo con gli amici 10 anni fa, si dicevano che Sassari sarebbe stata la squadra di riferimento, perché adesso in Italia, avendo vinto i 3 titoli stagionali, Coppa d'anno scorso, Coppa Italia, avendo vinto Scudetto e un giocatore sardo in NBA, avrebbe preso tutti per pazzi. Invece la Sardegna sta crescendo, il basket sardo sta crescendo, ovviamente grandissimo merito è della Dinamo, quindi è una cosa, non siamo più così lontani dal continente come il mare, cioè dove ci aveva messo, insomma. Bravo, bravo Gigi. Allora, Jack De Vecchi, convinci da Tome a venire a giocare a Sassari l'anno prossimo per fare l'Eurolega, dai. Ma sono disposto a offrire di tutto. Lui è il quinto moro della bandiera sarda, quindi voglio dire, già l'idolo. Quinto moro della bandiera sarda, poi? No, poi non posso fargli un'offerta economica perché economica ci pensa Sardara. Poi esatto, dopo le partite quante dirette mi offri, cioè. quello esatto, a dire quanto vuoi a Fiumi, pago io tranquillamente. Va bene Gigi, firmi? Così mi volete mettere in difficoltà per forza? Sì, sì, sì. Ma... anche perché ho sentito che vorresti andare a Milano, che potresti andare a Milano. Sentito, si può dire cazzata a quest'ora oppure... Un po' di cazzata a quest'ora, sì, ok. Ho sentito una cazzata, allora. No, nel senso, adesso è un momento grande di mercato, aspetto ancora il mercato di in America, lì inizia il 1 luglio, e niente, ovviamente ascolto tutti quelli che si vanno avanti, sono di richiesta, come al solito cercherò di fare la scelta giusta, cercando di essere il più partecipe possibile nella squadra dove giocherò, al livello più alto possibile, quindi devo cercare il giusto equilibrio tra queste due mie prerogative. No, io a dire la verità, io spero che Gigi D'Antoni resti nell'NBA perché ha trovato la sua dimensione ed è un orgoglio per noi, però lasciaci sognare insieme a Jack De Vecchi, cazzo, lasciamelo dire, Gigi D'Antoni che torna a Sassari, che torna a Sassari e gioca all'Eurolega con lo scudetto sul petto, lasciaci sognare questa cosa qui per 5 minuti. Lasciacelo fare. No, ci mancherebbe, le proposte, anche da Sassi non è arrivato niente ad oggi, però squadra campione d'Italia, ma veramente sono proposte, si parla di Milano, si parla di altre squadre, così sono tutte squadre di altissimo livello, quindi sono molto molto fortunato e felice di essere in una situazione del genere, che posso scegliere tante belle opportunità. Grazie ragazzi. Ciao, complimenti ragazzi. È bellissimo, insomma, perché veramente il basket in questi, devo dire anche l'anno scorso, cioè le due finali dell'anno scorso e di quest'anno ci hanno veramente, sono state, come si diceva giustamente, uno spot tra Marco Crespi e Siena che era fallita, questa finale in cui c'è uno scudetto che non esisteva e che adesso esiste. Grazie Jack, grazie Gigi. Beppe ci scrive che il tiro da 3 di Polonara che ha ballato sul ferro gli ha ricordato il doppio palo della Lazio in finale di Coppa Italia. In effetti siamo lì proprio. Ci sono delle volte, delle leggi, delle regole. Cerco di spiegartelo tutte le volte. La pallacanestro è meravigliosa. Io giocavo a livelli pessimi. Giocavo. Marco da Firenze, che è lì da circa 1:27. Marco. Sì, buonasera, mi sono quasi... No, non mi sto addormentando perché la trasmissione è bella. Grazie. È bellissima. Ma il nostro era un test, volevamo vedere se ti addormentavi. E invece hai vinto una maglietta. Sono le magliette qui. Buono, Genta, non essere molesto. Prego, Marco. Playoff, equilibrati e bellissimi. Però secondo me è esito giusto. Perché Milano, ha avuto quel che si meritava dopo aver vinto l'anno scorso fortunatamente con Siena. Reggio Emilia, squadra forse la più organizzata veramente di questi playoff, sì. Però Sassari, un basket bellissimo, libero, aperto, rivoluzionario. Sì. Rivoluzionario, mi ha fatto emozionare. E poi vi volevo dire così, se in ordine siete d'accordo con me nella scala di emozioni dei giocatori, Dyson, Logan, Lawal, Sanders, Brooks, e chi di questi poi secondo voi può rimanere, a parte Lawal che si sa già che andrà a Barcellona. Speriamo che Sassari faccia bene anche in Eurolega, questo è l'augurio che gli facciamo tutti. Beh, Eurolega vediamo quali di questi giocatori, quelli che riusciranno a trattenere, anche perché è chiaro che questo titolo ha aumentato il valore di questi giocatori e anche il prezzo di questi giocatori. Io credo che sarà difficile trattenere Logan, che tra l'altro si è presentato alla finale con un sacco di valigie per andarsi a sposare a Las Vegas. Lawal va a Barcellona, Dyson magari potrebbe essere trattenuto, ma tanto a Sassari sono talmente bravi a ricostruire, a trovarne di nuovi, che tanto non credo esista questo problema. C'è Graziano Rossi. Hai visto Valentino? L'ho visto. Exciting, eh? Sabato intorno alle 14:40, credo che mezza Italia fosse collegata. Graziano Rossi, ciao Graziano, come va? Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ma gli devi, dire di stare attento a non tagliare le curve. Ma allora io ti dico, io sono 4 anni che provo a convincere Graziano Rossi a venire in moto con me e lui non vuole. Sono quattro anni che pubblicamente dico grazie, andiamo a fare un giro, e lui mi dice no, io con te non ci vengo. Dopo, se ci troviamo all'ultima curva che non sappiamo se entri me o te, e dopo come la mettiamo? Esatto. E la mettiamo che facciamo a carenate. Ho capito. A me mi sembrava che di carenati in famiglia ce ne siano già abbastanza. Senti, ma posso fare una domanda alla Profano? Da genitore, no? Quindi è chiaro che 111 vittorie, ormai avrai il callo, saranno 20 anni che sei abituato alla paura, al rischio, all'emozione, all'adrenalina, all'ebbrezza. Guarda che lui ne ha fatte tante. Esatto, ma certo, però quando lo vedi lì, c'è ancora un attimo di... No, di comportamento da genitore medio, come farebbe mio padre Leo o mia mamma? Assolutamente sì, ma in tutti i momenti, tutte le gare, questo succede sempre, succede da sempre e succede ancora come la prima volta, perché l'emozione comunque è forte. E c'è un sentimento che non saprei bene come chiamare, perché non è paura, non è apprensione e non è solo curiosità, ma è un misto di cose insieme a comunque anche una buona parte di gioia, no? Ed è un momento molto emozionante quello della gara, assolutamente. Senti Graziano, ma cosa? Io invece ti faccio una domanda da giornalista cattivo. Quando Marquez l'altro giorno ha detto quelle cose che ha detto, tu cosa hai pensato? Dunque, cioè, quando ha detto che secondo lui ha vinto lui e che la prossima che era il vincitore morale, dai, che era il vincitore morale, ha rosicato, va bene, ho capito, ha rosicato. Come però può succedere, non c'è Valentino ne ha mandati tanti al manicomio, a cominciare da Gibernau, Max Biaggi, eccetera eccetera. Quando ho visto quel sorriso un po' finto, un po' di plastica di Marquez, che diceva sono il vincitore morale di questa corsa, Valentino ha tagliato la chicane, eccetera eccetera, io un po' mi sono arrabbiato, posso dire? Puoi dire, però però dunque, allora bisogna che partiamo da un attimino più indietro, no? Perché se in questo momento, allora le gare sono più o meno belle a seconda di quanti personaggi le partecipano, no? Quanti piloti di primo piano ci sono, adesso ce ne sono sicuramente 5 o 6 di primo piano, no? Certo. Ma secondo me la religione del sorpasso, il sorpasso come prima cosa di tutto, ce l'hanno solo Marquez e Valentino. Allora, diciamoci, mi senti? Diciamoci pure che le gare sono più o meno belle a seconda di quanti sorpassi si verificano, perché il sorpasso è comunque la materia prima che fa di una gara entusiasmante, no? Valentino e Marquez e Valentino sono Valentino da sempre, Marquez da sempre anche lui, gli artefici, i protagonisti, gli amatori del sorpasso. Sì, eh? Sì. Quindi se è vero che Lorenzo quando è in forma è velocissimo, se è vero che Pedrosa, se è vero che la Ducati, se è vero tutto quello che vuoi, però sono questi due protagonisti che... c'è modo che ci facciano divertire molto per tutta questa stagione. Io in questo momento mi metto dalla parte del pubblico, no? Chiaro. No, ma è stato meraviglioso. È stato bellissimo. È stato meraviglioso. Però insomma, qualche anno fa c'erano, no, questi tweet, questa corrispondenza d'amorosi sensi, come dice il poeta, no? Fra i due, nel senso che appunto sì. Marquez giustamente guardava Valentino come al suo punto di riferimento, al suo maestro. Chiaro. Valentino gli rispondeva sempre adesso, in maniera molto. Adesso se le suonano. Il clima è un po' cambiato. Adesso se le suonano. assolutamente non c'è più, non c'è, è già finito da tempo questa amicizia, è già finita da tempo, ma questa amicizia è già finita da quando Valentino ha solo immaginato che questo poteva capitargli tra le ruote. Dall'altra parte all'inverso è lo stesso modo, questi piloti di questa risma, di questo livello non si amano mai, non si sono mai amati. Non c'è mai stata amicizia se non finta, ecco. Bravo. Beh, abbiamo fatto chiarezza. Graziano, ci vediamo al ranch, prepara le moto, Le moto sono pronte, quando arrivate pronte. C'è già la benzina, sì, tutto. Il problema è quello. Facciamo io contro Graziano. Vai tranquillo. Ciao Graziano, ti abbraccio. Buona giornata, ciao. C'è Lorenzo da Firenze, ce la facciamo? Sì, come Lorenzo. No. Lorenzo? Sì, buon pomeriggio. Come va? Senta, io vorrei fare una domanda, voi due sicuramente di calcio ne masticate più di me. Voglio sapere di quest'Inter, no? Perché questo mistero di questa Inter che spende e spande alla faccia del fair play finanziario, delle regole, per come mai questi spendono miliardi e tutti gli altri devono stare alle regole, questi fanno mercato, spendono e spandono. Voglio sapere come mai questa cosa qui, ecco. Beh no, sicuramente l'inizio di mercato dell'Inter è sorprendente rispetto a quello che si diceva, rispetto ai parametri del fair play finanziario. Io credo che inevitabilmente dovranno vendere. Poi c'è anche da dire che molti degli acquisti dell'Inter sono acquisti che sono procrastinati nel tempo, nel senso che poi l'investimento nell'immediato è un investimento minimo che dovrà eventualmente o che potrà eventualmente essere confermato con un investimento più importante. Questo è il metodo che sarà adottato sia a gennaio che adesso. In questo ci vuole certamente creatività, ci vogliono rapporti di un certo tipo. L'Inter ha ancora ovviamente un'immagine di altissimo livello, quindi riesce e degli ingaggi, comunque può supportare degli ingaggi alti e quindi può riuscire a convincere giocatori molto importanti. Da questo punto di vista mi sembra che è tutto abbastanza semplice come meccanismo. È sorprendente perché anche molti commentatori più addentro a questioni economiche ci parlavano di un'Inter dimessa in questa campagna acquisti e fin qui non è stato, quindi un po' sorprende anche noi. Dobbiamo salutare, vi ricordiamo che siamo tutta la settimana qui e che tutti i programmi a Expo, Zanzara compresa, sì. Anche il signor Cruciani arriverà qui, speriamo che non litighino nessuno dei tornelli, tutti i giorni fino a venerdì e anche domenica. A Expo Cibus Italia, venite a trovarci, vi diamo le magliette. Adesso io vado a cercare il Portogallo. Dove anche se non c'è. A cercare il Portogallo. Lo vai. Ma non c'è, pare. Il Portogallo vado a cercarlo. Avevo una voglia di baccalà incredibile. Vado a fare un giro, no? A parte le battute, perché è un grande. Domani torni qui, no? Torni qui. Domani Pierluigi Pardo torna qui. Assolutamente. Lo annunciamo ufficialmente. Michele Previato in redazione, Davide Cioccia, grazie, Giorgio De Luca, Milano. Benjamin che ci ha fatto un sacco di cartelli di segnali. Facci un cartello di saluto, non c'è un cartello di saluto, facci il cartello il Falco e il Gabbiano. Salutiamo il maestro Enrico Ruggeri. Facci il cartello il Falco e il Gabbiano. Ciao ragazzi. Arrivederci ragazzi, ciao.